GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Il successo della Roma, la scivolata dell'Inter, entrambe le italiane comunque passano agli ottavi di Champions. Ma in primo piano il grave infortunio a uno dei leader del Milan e della nazionale, Gennaro Gattuso. Sentiamo. Stagione finita per Rino Gattuso e questa è la brutta notizia che ha dato là nel modo peggiore alla settimana di Juve-Milan. A Torino il centrocampista non avrebbe giocato per squalifica, ma la lesione al crociato del ginocchio destro rischia di toglierlo ad Ancelotti per tutto l'anno. Rino si è fatto male al quarto minuto di Milan-Catania, ma è rimasto in campo stoicamente fino al 90. Stamattina Gattuso decolla alla volta di Bruxelles e poi prosegue per Anversa, dove il professor Martens lo visiterà e con ogni probabilità procederà con l'intervento in artroscopia. Il recupero per infortuni di questo genere vale da 4 a 6 mesi, più 4 che 6 se si pensa ai precedenti rientri record del calabrese. Cristiano Rubio, GR24, sulle 24 ore. E ora al Champions, all'Olimpico i gol di Brighi e Totti valgono alla Roma il 2-0 sul Bordeaux e il primo posto nel gruppo A davanti al Chelsea. La soddisfazione del capitano giallorosso. Siamo contenti anche perché da come avevamo iniziato la Champions League non è che eravamo proprio sicuri di poter arrivare primi, invece con la determinazione e la convinzione di una grande squadra penso che siamo usciti fuori. A Brema l'Inter cede davanti al Werder, 2-1 per i tedeschi in gol con Pizarro e Rosenberg, di Ibrahimovic la rete interista, nerazzurri secondi nel gruppo B dietro al Panathinaikos che ha superato 1-0 la Nortosis. Mourinho a Sky Sport. Adesso meritiamo uno dei più forti, questa squadra merita per sua propria Coppa, merita un Barcellona, merita un Manchester, merita il campione d'Europa. Quando arrivare l'ottavo di finale a febbraio sarà il momento di giudicare veramente le nostre potenzialità in Champions. Stasera tocca Juventus, già qualificata, e Fiorentina. A Torino i bianconeri ospitano il Bate Borisov. Il tecnico Ranieri vuole chiudere bene la prima fase. Per noi stessi, per la classifica, dobbiamo giocare. A me non piace una squadra che stia lì tanto a pensare, noi non siamo costruiti per pensare tanto, noi siamo costruiti per lottare, per impegnarci in ogni partita, questa è la nostra mentalità. Nell'altra gara del gruppo H è Real Madrid, già qualificato, che ieri ha esonerato Bernd Schuster e affidato la panchina allo spagnolo Juan de Ramos, ospita lo Zenit. Nel gruppo F alla Fiorentina basta un pari a Bucarest contro la Steaua per conquistare la terza piazza che vale il via libera alla Coppa UEFA. Prandelli non si fida dei romeni. Squadra che anche da un punto di vista fisico è importante, quindi dobbiamo essere bravi noi a cercare gli spazi e con pochi passaggi cercare di andare a far gol. Questo è il tema nostro. Lione e Bayern Monaco si giocheranno invece il primo posto nel girone. E dal Brasile arriva intanto anche la notizia del ritorno al calcio giocato di Ronaldo. L'ex interista e milanista avrebbe firmato per il 2009 un contratto con il Corinthians. Ieri intanto primo giorno di Walter Novellino come nuovo allenatore del Torino. Sentiamolo. C'è una squadra buona, una squadra che è in difficoltà, è inutile nasconderlo. Sono convinto che ne usciremo più presto possibile da questa situazione. È chiaro che la collaborazione del giocatore è fondamentale in questo punto. Ecco. Per il basket invece terremoto sulla panchina di Roma. Dopo 5 sconfitte consecutive in campionato si è dimesso l'allenatore croato Jasmin Repeša. Stasera impegno di Eurolega per Milano, a Istanbul contro l'Efes e Siena che ospita lo Žalgiris. Domani tocca proprio ai romani e a Avellino. E chiudiamo con la vela, manca solo l'annuncio ufficiale, ma ci sarà anche Luna Rossa tra i team che parteciperanno alla prossima Coppa America nel 2010. Ma lo svolgimento della manifestazione resta in dubbio, vista la battaglia legale tra i detentori di Alinghi e gli americani di Oracle. Alle 14 l'appuntamento con A Tempo di Sport. Un saluto da Dario Ricci.